Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Ciao. Grazie. Mi chiamo Rossella. Certo. Non farmi bere troppo, altrimenti divento un po' troia. Whatever it is you think you are, you aren't a good friend. Unique, well-read, good-looking, or smart. It hurts to hear, but it's true. You don't mean anything to anyone but me. And even I think that you're blinded by watching you dance from across the room. They aren't. If anything, they feel sorry for you, 'cause you try so. Friend. Lui, di nome fa Mike Kinsella, viene da Chicago, ha intrecciato diverse band nella sua carriera, Cap'n Jazz, Joan of Arc, American Football, Owls, ma poi ha deciso di lavorare solo a casa sua, da solo. Taglia e cuce musica completamente da sola, non la intreccia più con nessun altro. E per sottolineare questo aspetto ha inciso un album intitolato At Home with Owen, uscito per la Polyvinyl, un'etichetta che sta facendo uscire parecchie cose in questo periodo e molte di queste trovano spazio all'interno di Eclettica. Bad News è il brano che ha aperto la seconda parte di Eclettica di questa settimana in compagnia di Giulio Caperdoni, settimana in cui avete notato c'è un film che mantiene la stessa tradizione della scorsa settimana, ovvero sia la tradizione di film in lingua inglese, ma che contrariamente rispetto al solito vengono trasmessi in versione doppiata. Vi siete già accorti che si tratta di Quattro matrimoni e un funerale o avete bisogno di qualche altro spezzone? Nel caso ho rotto io l'incantesimo, non dovete più aspettare, ormai sapete di che cosa si tratta. Ora parliamo di un progetto che avrà anche l'attenzione delle pillole di Eclettica questa settimana, che vede il meglio della scena underground rendere omaggio al padre della new wave italiana, progetto che si chiama Con Garbo, tutto attaccato, e rende omaggio a Renato Abate, in arte Garbo milanese, che esordisce con A Berlino va bene 25 anni fa, 25 anni di carriera, un quarto di secolo di carriera. E la cover che io ho scelto è una cover boviana, visto che David Bowie è l'artista di riferimento, perlomeno nella parte iniziale di Garbo. In una compilation in cui compaiono tanti nomi, come quello di Crisma, di Badaschi, di Boost, dei Jetlag, di Lele Battista, di Jonata, dei Baustelle, di Mauro Giovanardi, degli Zoo, di Meg, di Marco Notari, dei Lombroso, dei Delta V, io sono andato a scegliere l'ex Blue Vertigo Andy, che compare esattamente con questo nome, senza l'indicazione del suo passato, alla traccia numero 11, l'ultima del primo dei due CD che compongono Con Garbo. Con Bargo? No, Con Garbo, ho invertito. Con Garbo è una delle sue tracce più note, Il fiume. Scorre il fiume su di noi, solo un giorno più. L'altra notte ho sognato che mi trovavo seduto sul marciapiede di Moody Street, Pawtucketville, Lowell, Massachusetts. Con carta e matita in mano mi dicevo: descrivi l'asfalto grinzoso di questo marciapiede e anche i paletti di ferro dell'istituto tessile, oppure il portone dove Lucy e tu e GJ vi mettete sempre a sedere, e non soffermarti a pensare alle parole quando ti fermi. Soffermati solo per immaginare meglio la scena. E lascia vagare libera la mente in questa storia. Questo era l'incipit del Dottor Sax di Jack Kerouac. Wouldn't it be nice if we were older, then we wouldn't have to wait so long. Wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong? You know it's gonna make it that much better when we can say goodnight and stay together. Wouldn't it be nice if we could wake up in the morning when the day is new? After having spent the day together, hold each other close the whole night through. Happy times together we'd be spending. I wish that every kiss was a never ending. Wouldn't it be nice? Maybe if we think and wish and hope and pray it might come true. Maybe then there wouldn't be a single thing we couldn't do. We could be married, and then we'd be happy. A prima vista potrebbe sembrare un progetto statunitense, visto che anche sono per la maggior parte statunitense gli artisti che realizzano le 13 tracce al suo interno. Poi, guardando meglio, si vede che la Houston Party, l'etichetta che ha avuto l'idea di questo Do It Again Tribute to Pet Sounds, è un'etichetta di Barcellona, in Spagna. Quindi un tributo all'album mostra dei Beach Boys, che però non mi soddisfa. Avevo delle grandi aspettative, perché il disco di per sé, da cui noi ci siamo ascoltati gli Oldham Brothers con Wouldn't It Be Nice, all'origine era un grande disco. Poi avevo scorso la playlist e oltre agli Oldham Brothers avevo trovato altri nomi che sono tipici delle mie playlist: Nobody, Micah Pinson, ogni tanto mi capita di sbagliarlo, Daniel Johnston, Mazarin, Jody Wildgoose, Patrick Wolf, Architecture in Helsinki ed altri. E poi, ascoltandolo, ho fatto fatica, ma veramente, a trovare una traccia che ho ritenuto degna di eclettica. Invece, ben altro parere sul gruppo con due punti esclamativi, però in due posti diversi, che vi sto facendo ascoltare da qualche settimana a questa parte. Uno dei migliori nomi nuovi statunitensi in eclettica di questo periodo sono gli Oh No, Oh My, dal Texas, con I Love You All The Time. Come va? Mi chiamo Charles. Non sia ridicolo. Charles è morto più di 20 anni fa. Credo che mi abbia scambiato per un altro Charles. Vuole forse insinuare che io non conosco mio fratello? No, no, niente affatto. I'm not con Courtney Tidwell da Nashville abbiamo quasi chiuso anche la seconda parte di Eclettica di questa settimana. La chiudiamo ancora con gli Stati Uniti, quest'oggi direi molto molto molto presenti anche come incipit della settimana, che sono poi quelli di Jack Kerouac. Qualche data, sono poche, c'è rarefazione, come già ho detto, in questi giorni di uscite discografiche, ma c'è anche rarefazione di date live in questo periodo, poi passate le feste si riprenderà tutto come prima. Alcune di queste date però riesco a farvele vedere gratuitamente, sempre che vi interessino. Il 23 dicembre al Cage Club di Livorno i Soda Stream, un never ending tour italiano, e poi invece gli Amari suoneranno il 29 di questo mese allo Zero Music Club di Azzano San Paolo, Bergamo. E Giulio Cappelloni che chiude con un artista che con le sue prove precedenti già era passato di tanto in tanto, così sembrerebbe essere inglese, sia come stile della grafica che anche come stile musicale, come uso quasi masturbatorio della chitarra, tutto registrato da solo in una stanzetta. Invece è un artista statunitense, Los Angeles, anche se a tutti gli effetti l'origine c'è Baltimora. Il nome è Guy Blakeslee, però nelle playlist lo trovate come Entrance. Ha cambiato etichetta, TP Records è il nome dell'etichetta per cui è inciso il nuovo Prayer of Death, dal quale noi ci ascoltiamo il blues di apertura, Grim Reaper Blues, che chiude la seconda parte di Eclettica. Alla prossima, cioè alla terza, e poi alla quarta, e poi alla prossima settimana. dialettica. Fine della seconda parte.